America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, una coda del 4 di luglio. Freedom Ring, lasciate che suoni la libertà, grande canzone patriottica americana, un'America sospesa fra la voglia di festeggiare e la paura per un double dip. E così voglio darvi, come vi dicevo, una coda sui parties, sulla voglia comunque forte di festeggiare. Ieri vi ho raccontato delle feste per strada, dei fuochi d'artificio, delle parate militari. Oggi vorrei parlarvi dei parties, le feste che sono state un po' dappertutto, sui tetti a New York, appunto per vedere i fuochi d'artificio, nelle case dei sobborghi di Detroit o dell'Alabama o della California, insomma dappertutto in America ci sono stati dei parties familiari o comunque dei parties allargati, e quindi vorrei raccontarvene un paio di questi parties. Agli Hamptons, località balneare sulla punta orientale di Long Island, a un paio d'ore da New York, spiagge interminabili e vuote, perché la cosa che colpisce è che a luglio sono queste spiagge bellissime e vuote, case sull'oceano che valgono 30 milioni di dollari, all'interno molto più abbordabili, ma è la meta dove si rifugiano i newyorkesi d'estate per prendere un po' di fresco. E dunque ve ne racconto due di questi parties fra i più noti, tradizionali ed esclusivi di questo fine settimana. Come dire, il realismo domina con l'economia un po' in difficoltà, ma l'ottimismo alla fine resta ben radicato. Rolling Stones, alla fine delle cene organizzate c'era sempre un disc jockey o un gruppo che suonava questa canzone dei Rolling Stones, è andata per la maggiore, chissà, forse tutti cercano un po' di satisfaction, ma il primo party, direi, è il party forse più importante dell'estate qui a New York, che si trasferisce agli Hamptons, è il party di Lally Weymouth, è l'ereditiera del gruppo del Washington Post, e questo party nasceva in onore di sua madre, la leggendaria Kay Graham, amica di presidenti, garante della libertà editoriale durante lo scandalo Watergate, autrice di una biografia di straordinario successo, amica tra l'altro dell'avvocato Agnelli. Beh, dopo la morte di Kay Graham, questo party è rimasto comunque un evento tra virgolette in famiglia. Ci sono i fratelli di Lally, Donald, Steven e tutta la terza generazione di figli e nipoti. Sabato sera, fra i 300 invitati, perché poi è un party in famiglia, ma ovviamente allargato, grande tendone bianco al di sotto del quale prima ci sono i drinks e poi tavolate rettangolari molto lunghe, invitati l'ex sindaco Giuliani, il senatore Schumer, sbacchieri, celebrità sociali, c'era anche la prima moglie di Nicolas Sarkozy, pensate, Cécile, con il nuovo marito Attias, e c'erano i finanzieri George Soros, Wilbur Ross, Carl Icahn. You don't have to be rich to be my girl. Non hai bisogno di essere ricca per essere la mia fidanzata, dice la canzone di Prince, un'altra canzone che abbiamo sentito in giro in questa settimana. Beh, sì, forse non c'è bisogno, perché qualche volta sono ricchi o ricchissimi coloro che li danno questi party. A parte Lally Weymouth, l'altro di cui vi voglio parlare è il party di Ron Perlman, uno dei grandi finanzieri newyorkesi, tra l'altro proprietario della Revlon. Domenica sera a East Hampton è un party, direi, più funky, meno serioso rispetto a quello di Lally Weymouth, dove tutti erano rigorosamente in giacca e cravatta, un profilo meno finanziario forse e più di spettacolo. La casa enorme si affaccia su Georgica Pond, che è un laghetto d'acqua dolce separato dall'oceano da una lingua di sabbia, e tutti coloro che hanno le case attorno a questo laghetto di Georgia, che saranno forse una trentina di case, sono membri di un'associazione che autorizza l'uso di una barchetta a vela costruita soltanto in Massachusetts, e con questa barchetta poi si va sul laghetto da casa verso la striscia di sabbia a fare il bagno sull'oceano Atlantico. E dunque Perlman, che appunto vi dicevo uno dei grandi finanzieri americani aveva più stelle dello spettacolo, come Bon Jovi, per esempio, il quale ha preso a un certo punto la chitarra in questo teatro, una specie di grande capannone dove c'era una band che suonava, e si è messo a sua volta a suonare. E c'erano però anche lì, ovviamente, dei finanzieri, per esempio i Tisch, che sono i proprietari della catena di alberghi Lowe's. In questi party c'è naturalmente da mangiare, ovviamente cose rigorosamente tradizionali americane: hamburger, pollo fritto, fagioli saltati, poi si balla, c'è, come vi dicevo, il disc jockey, la band, e soprattutto si chiacchiera e si fa il punto della situazione. Ve lo farò in un secondo. Gloria Gaynor, I Will Survive, alto classico degli anni 70, anche questa è una canzone che ha dominato in questo weekend. Ebbene, molto appropriata, perché oggi stiamo parlando in tutti i sensi di sopravvivenza. Posso dirvi che l'umore di fondo, chiacchierando un po' con questi personaggi, che ovviamente non ballano soltanto o mangiano soltanto, ma poi alla fine si incontrano, si scambiano opinioni, idee, e in qualche modo danno poi magari un là per la settimana che arriva. Ebbene, il senso dell'incertezza domina. Intanto ho avuto la conferma che c'è questa sensazione piuttosto sgradevole da parte di molti di questi finanzieri, che da parte dell'amministrazione Obama e del presidente in particolare ci sia un profondo sentimento anti-business che non aiuta, dicono, l'economia. Per l'economia il rischio di un double dip è forse superiore al 25%, qualcuno dice addirittura il 30-40%. L'onda lunga della speculazione negativa, dice qualcuno, finirà poi per arrivare anche in America. Il settore immobiliare resta fragile. Fin qui cose che più o meno abbiamo sentito ed ascoltato. Se non fosse che proprio ieri il New York Times ha aperto con un articolo che, devo dire, è al di là del pessimistico, è addirittura cataclismico. Il New York Times cita una conversazione con Robert Prechter, che è un forecaster di mercato e un signore che fa previsioni di mercato, il quale ha dato, devo dirvi, il quadro più negativo che abbia sentito finora. Dice che siamo alla vigilia di una crisi che sarà la peggiore negli ultimi 300 anni. Finora dicevamo che eravamo nella crisi peggiore dagli anni 30, quindi negli ultimi 70 anni. No, lui la spara, 300 anni. Non solo. Dice che l'indice Dow Jones, e siamo già preoccupati perché è sceso da 12.000 a 9.006, ma che anzi a questo punto dovremmo essere felici, perché secondo lui l'indice Dow Jones nel giro di 2 o 3 anni arriverà a quota 1.000. Ecco, fa una serie di riferimenti storici, dice che secondo lui tutta una serie di regole contabili costruite secondo il modello di un tale Ralph Nelson Elliott, un contabile oscuro che nessuno conosceva, ma che poi ha avuto un discreto successo perché appunto ha creato questo modello in cui identificava delle variabili che poi producevano degli scenari. Io non credo, devo dire, nonostante il pessimismo che ho visto anche un po' in questi parties, che dovremo arrivare a quel che ci dice il signor Prechter. Prendiamo la sua come una boutade da 4 di luglio, come una boutade su questa America the Beautiful, che resta comunque alla fine di queste feste un po' preoccupata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica. Ad esempio, Hillary Clinton ha fatto un viaggio in Europa dell'Est cercando di rassicurare questi paesi preoccupatissimi dalla special relationship tra Mosca e Washington. Di questo magari ne parleremo poi domani. Questi approfondimenti continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho parlato di Bon Jovi, era ospite in questa festa, ha cantato, ho avuto io stesso il piacere, il privilegio di sentirlo live in una vera festa americana con una canzone improvvisata alla chitarra. It's My Life, Bon Jovi. It's my Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.